Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Remo Ruffini, passione lo sci, obiettivo piumino globale. Diana Marino. Una delle più grosse passioni, abito vicinissimo alle montagne, dunque anche molto comodo. Ogni weekend, se riesco, vado in montagna. 10-12 weekend all'anno. Dal momento in cui cade il primo fiocco di neve, Remo Ruffini, numero uno di Moncler, non perde una pista. Nato a Como, classe 1961, figlio d'arte, Remo Ruffini prima inventa un'azienda di abbigliamento tutta sua. Dopo 18 anni la vende e diventa direttore creativo dell'azienda francese famosa per i suoi duvet, in francese i piumini. La storia dello sci si lega alla storia di Moncler e soprattutto alla storia di Remo Ruffini. Legherei un po' la storia di Moncler, del marchio, allo sci. Io credo che sia molto importante. Io ho studiato abbastanza la storia perché è stata una mia acquisizione recente e per me è stata importante per rilanciare il marchio, per gestire questo marchio, comunque guardarmi la storia di Moncler. Ed è molto importante per capire, se guardi la storia di Moncler, vedi anche un po' la storia della montagna e un po' la storia degli sport invernali. Moncler è nata nel 52, ha fatto tutta una sua storia creata da queste due persone, in questo piccolo paese al sud-est della Francia, vicino alle Alpi della Savoia, e ha creato questa piccola azienda per trovare la soluzione delle proprie necessità. Loro erano degli alpinisti, degli scalatori, volevano avere più caldo, essere leggeri e confortevoli. E poi nel tempo mi sono reso conto che loro volevano far diventare questa attività un business e pian piano hanno portato il marchio sempre più verso la montagna, ma anche più verso degli sport un po' meno di elite, perché comunque l'alpinismo lo è tutt'oggi, ma lo è sempre stato uno sport di super elite, perché è uno sport rischioso, uno sport con cui ci vogliono delle attitudini sportive. E dagli anni 50 agli anni 60 è stata proprio una grandissima trasformazione, quella che c'è stata un po' poi in tutte le nostre, in tutti i nostri campi da sci, tutte le nostre stazioni sci, tutti i nostri resort. Negli anni 60 è iniziato lo sci con gli ski lift, con le seggiovie, dunque è stato quello sci che non era lo sci degli anni 50 che avevi le pelle di foca e dovevi salire, che era tutto molto complicato. Ed è lì che ha cambiato anche il modo di vestire, ha cambiato il modo di usare una giacca, ha cambiato il modo di fare un weekend inverno, perché di fatto dagli anni 60, esattamente il 68-67, i primi anni degli impianti di salita, perché quello è il punto di partenza dello sci, dagli anni 60, dalla fine degli anni 60 fino agli anni 80, fine anni 90, c'è stata la trasformazione dello sci di altissima elite, di queste foto che si ricordano a Stade, i Kennedy che venivano dall'America a provare a sciare, fino a quando si è arrivate negli anni 80 e gli anni 90 ai fenomeni delle squadre nazionali di sci italiani, francesi, Alberto Tomba, e senza andare nella storia, ma proprio la realtà di questi giorni. Lì è cambiato veramente il modo di andare in montagna. Di fatto ci sono nate, adesso non mi ricordo il numero, ma decine e decine di stazioni sciistiche da un impianto di salita ai grandi resort americani del Colorado, della Svizzera, con i centinaia di chilometri di pista. E credo questo ha cambiato un po' il modo di divertirsi d'inverno e ha cambiato anche un po' il modo di vestirsi d'inverno. La passione per le sfide porta Remo Ruffini a rilevare nel 2003 il marchio Moncler, di cui oggi è presidente e direttore creativo. Remo Ruffini e Moncler hanno in comune una storia di crescita e svolte, con una costante ascesa che si può toccare con mano anche oggi. Nel 2009 l'azienda ha realizzato un giro d'affari di 220 milioni di euro, contro i 145 milioni del 2008, con un aumento delle vendite di più del 50% in tutto il mondo. Ma la storia di Moncler, fondata a Grenoble nel 1952, attraversa i tempi e le mode, come racconta Remo Ruffini, che ha raccolto l'eredità di un passato denso di ricordi. È difficile perché è un'acquisizione recente, è venuta solo nel 2003, dunque è veramente un racconto, per sito dirlo, per aver letto, per aver studiato la storia che mi interessava per come far riqualificare l'immagine di questo marchio. È un po' anche ricordo quando io ero piccolo, perché di fatto quando io avevo 14-15 anni Moncler era molto molto popolare in città, e da lì quando ho comprato il marchio la prima cosa che ho cercato di capire è come ha fatto andare dalla montagna alla città così velocemente con un prodotto molto molto tecnico. Nelle origini del nome sono racchiuse le sue radici. Moncler nasce infatti dall'abbreviazione di Monastier de Clermont, villaggio sulle montagne vicino a Grenoble. Qui, nel 1952, René Ramillon, geniale imprenditore fabbricante di articoli da montagna e autore di decine di brevetti, fonda l'azienda che darà vita al celebre piumino. All'inizio, la Moncler, diretta da André Vincent, amico di Ramillon e commerciante di articoli sportivi a Grenoble, produce sacchi a pelo imbottiti e tende da campeggio, con struttura telescopica e copertura esterna. Ecco come Remo Ruffini spiega la conquista di un uso quotidiano e cittadino da parte di un prodotto che era partito dalla montagna. E ho capito che questi due signori in questo piccolo paesino, Monastero e Clermont, erano due ragazzi, due alpinisti che sono fatti un'azienda per loro necessità. Questa è stata una cosa importante, con grande energia, no? Si sono costruiti la loro tenda di piuma d'oca, perché avevano bisogno di una tenda non fredda. E infatti la prima manifestazione che loro hanno fatto nel 1957 era uno stand di una fiera di abbigliamento dove loro esponevano una tenda e due piumini. E questa è proprio la foto simbolo che ho nei miei archivi, è proprio la foto simbolo, secondo me, di Moncler dell'inizio del business, perché nei primi anni è stato un business, ma di fatto era un hobby più che un business. E loro sono nati in questo alpinismo, questi piumini che praticamente non avevano tecnologia, no? Servivano solo per tenere caldo. Erano delle giacche enormi, piene di piuma, con un chilo e mezzo di piuma, con questi tessuti non impermeabili, perché a 7-8 mila metri non piove, dunque non serviva il waterproof, l'idrorepellenza. Dunque di fatto era un piumino che era stato studiato per quella necessità. E loro hanno fatto questa prima mostra per cercare di vendere a dei loro colleghi questo tipo di prodotto. I primi piumini vengono ideati già nel 1954 per proteggere gli operai dal freddo, che li indossano sopra la tuta da lavoro nel piccolo stabilimento di montagna. Il primo a notarli e ad intuirne le potenzialità è Lionel Terré, figura chiave nella storia di Moncler. L'alpinista francese, di ritorno da una spedizione in Canada, chiede a Ramillon di realizzare tute, guanti, sacchi a pelo ad alta resistenza e super protezione, adatti ai climi più estremi da utilizzare nelle proprie imprese. Poi arrivano le spedizioni internazionali, di cui Moncler diviene fornitore ufficiale. Ma il cambiamento decisivo avviene nel 1972. L'équipe francese richiede una nuova variante del piumino, non più nella versione doppia, che resta comunque ancora oggi in collezione con modelli come Karakorum, ma il capo singolo, leggero e adatto alle necessità agonistiche. Viene chiamato all'inizio Huascarán e poi Nepal, con l'aggiunta delle spalline di cuoio per appoggiare gli sci senza danneggiare il tessuto. Negli anni Ottanta la storia di Moncler cambia e la sferzata definitiva porta il nome di un settimanale glorioso, Elle. È una rivoluzione. E il piumino è diventato metropolitano, come racconta Remo Ruffini. Negli anni, però, secondo me, poi questo non lo saprò mai perché di fatto sono passati tanti anni e non ero presente, non ho capito se è stata quasi una casualità. È stata una casualità che loro facevano queste giacche enormi in tre colori. Mi ricordo che c'era un azzurro forte, un verde forte, un arancio, un giallo. E di fatto qualcuno che poi saputo che poi di fatto il successo è stato in due città, Milano e Tokyo, un negoziante di Milano ha cercato di portare queste giacche per l'uso cittadino, e lì è stato il grandissimo successo di Moncler degli anni 80, perché sono arrivati a vendere 70-80 mila giacche all'anno, dunque un numero importante per quegli anni. Però di fatto non è durato molto il fenomeno, perché io mi ricordo che avevo 14-15 anni, mi ricordo un po' l'uso di questa giacca, possedevo una giacca, quella azzurra, mi ricordo, e di fatto era una giacca molto pesante, perché di fatto teneva un caldo incredibile che potevi usarla solo nei 15-20 giorni, quando veramente la temperatura andava sotto lo zero. Però il look era talmente bello in quel tempo che era diventata di grande moda, e credo che quello è stato un po' il punto fondamentale della storia per far capire come si poteva ridare qualità a un prodotto come Moncler. E come qualità intendo anche dire non solo nel prodotto, ma anche nella possibilità di uso in tutti i giorni e per una buona parte dell'anno. È un po' il lavoro che abbiamo fatto in questi giorni. La storia del piumino si lega anche alla storia del costume. Ecco come Remo Ruffini ha vissuto personalmente da giovane le mode che hanno coinvolto la Griffe Moncler, in particolare quella tutta italiana dei cosiddetti paninari. Io personalmente ho ricordo di un motorino, di un paio di Timberland, di un paio di jeans, di questi piumini colorati, ed era l'outfit del momento, no? Proprio questo jeans piccolo, perché eravamo tutti abbastanza magri a quell'età, con queste giacche enormi, che era proprio il look del momento, con queste Timberland gialle. E a quegli anni è difficile dire il motivo. Comunque io credo che, come tutti i prodotti di abbigliamento, come tanti prodotti di abbigliamento, l'originalità, la storia, la radice di un prodotto sia vincente. E in quel caso io credo che il ragazzino, io onestamente il ragazzino non mi ricordo, però credo che l'originalità del prodotto, il vero piumino dell'Himalaya, il vero piumino del Karakorum, della vetta più alta del mondo, dava quel charming che ti dava la possibilità di, o che ti faceva venire voglia di comprare un certo tipo di prodotto, perché credo che una moda spesso venga da un'origine, da un sogno, e lì il sogno c'era. Io ho tutte le foto della storia di Moncler, c'era un grandissimo sogno, questi quattro uomini, sei uomini, questi a 6-7 mila metri che facevano quasi fatica a respirare, però camminano a fatica quasi sulla luna, perché il sogno era un po' quello, con queste giacche enormi che tenevano calde. Credo che il ragazzino a quel tempo si era un po' affascinato a un prodotto vero, un po' con una grande radice. L'ingresso di Remo Ruffini nella storia e nella realtà di Moncler parte dai suoi passaggi personali e familiari. La formazione professionale di Remo Ruffini si sviluppa a cavallo fra l'Italia e gli Stati Uniti. Dopo un corso in fashion marketing all'Università di Boston, entra nell'azienda del padre, la Gianfranco Ruffini negli States, azienda che si occupa della progettazione stilistica e della commercializzazione di una serie di linee di abbigliamento. Rientrato in Italia, nel 1984 fonda la New England, azienda specializzata in camiceria maschile. Nel 98 diventa direttore creativo di alcuni importanti brand di abbigliamento: Henry Cotton, Marina Yachting, Moncler. Finché Remo Ruffini riesce a rilevare il marchio. Ecco come è nata l'idea, il salto emozionale. È stata semplice, nel senso che io ho un'azienda che si chiama New England, che era un'azienda di fatto che ho inventato io, nel senso negli anni 80, quando primi anni 80 ero stato per un periodo a Boston e ero affascinato da questa parte est degli Stati Uniti che va da nord dello stato di New York, attraversa Rhode Island, Massachusetts, va nel Maine, tutta quest'area si chiama tutt'oggi una regione tra virgolette, perché poi non è una vera regione, si chiama New England. Ero rimasto molto affascinato da Kennedy, il sogno di Kennedy, di Cape Cod, di Martha's Vineyard, di tutta quest'area e da lì ero tornato negli anni 80 in Italia. La prima cosa che piaceva fare, anche i miei genitori venivano da questo settore, e mi ero fatto una piccola aziendina di camiceria classica, camicia bottom down, che negli anni 80 era quasi una novità per l'Italia, però mi ricordava molto quell'epoca, no? Gli anni proprio di Kennedy, quando arrivava in vacanza in questi posti con la camicia bottom down, il vicino beige, la giacca blu con i bottoni, proprio quell'immagine così forte anglo-americana, ai tempi si diceva in Italia. È stata un'esperienza favolosa, perché è stato di fatto il mio inizio di lavoro, è stata quasi tutta la mia carriera, perché ho lavorato, ho fondato questa azienda negli anni 80, i primi anni 80, e l'ho venduta negli anni quasi nel 99-2000. Un'azienda del gruppo Stefanel. Da quel giorno mi sono sempre detto: voglio cercare un marchio vero, perché di fatto New England era inventata da me, no? Invece volevo cercare un marchio con una grande storia, una grande radice. Dunque non potevo ripartire con un'altra mia iniziativa, ma avrei dovuto cercare un marchio da acquisire con una grande tradizione, quella cosa che mi piaceva, una grande storia. E questo è stato, dopo un paio d'anni ho trovato Moncler, che era in vento, ho acquisito Moncler, è stata fantastica, perché era anche un marchio che io mi ricordavo, dunque un marchio che faceva parte della mia giovinezza, dei miei 14-15 anni, del primo motorino, dunque era entusiasmante la cosa, no? E mi sembrava di conoscere un po' la storia di quel marchio, perché l'avevo vissuta, anche se era una piccola parte, perché parlavamo di 2-3 anni che aveva avuto successo nelle città e in Italia, però da lì mi ha aiutato a costruire, a leggere, a capire cosa era successo e cercare di togliere tutti gli errori che sono stati fatti negli ultimi, di fatto, più di 50 anni. Remo Ruffini vive tra Milano, dove lavora per la sua Moncler, e Como, dove è nato e vive con la sua famiglia. Spiega se esistono messaggi che aiutano il passaggio di testimone nelle aziende familiari. Nell'azienda di famiglia, tipica azienda italiana, però credo che il mondo stia cambiando moltissimo. Io non credo, io due figli abbastanza grandi, perché me li vedo quasi miei amici, almeno sono alti come me, uno ha 22 anni e l'altro ne ha 19, dunque li vedo quasi vicini a iniziare una professione, iniziare un lavoro. Io quello che cerco di fare con loro è proprio che è un po' quello che hanno fatto i miei genitori con me, cerco di dare un'istruzione tale perché abbiano la possibilità di competere col mercato. Ecco, questo credo che sia la cosa più importante di tutti. Poi non credo, l'importante è che tu possa competere, che abbia una conoscenza tale, una cultura, una preparazione, che credo quella sia la cosa più importante. I miei genitori onestamente ci hanno provato, con me non ci sono riusciti molto, nel senso che io sono andato poi subito, ho iniziato a lavorare a 21 anni, 22 anni, sono andato subito per la mia strada, ho preferito lavorare, creare una mia impresa, creare un mio concetto, che forse, e lì forse ho anche sbagliato, nel senso che invece una cultura di base con un certo tipo di approfondimento ti rende tutto molto più facile poi nell'impresa. Dunque, se posso anche lì dare un consiglio, una preparazione di base, credo che sia la carta, almeno la carta che puoi giocare con un tuo figlio, ecco, creare una generazione. Poi non credo che dovesse per forza lavorare nella tua impresa o lavorare con te, però il dovere, credo, per un genitore è dare una cultura di base che ti permetta di competere con i mercati che oggi sono molto difficili. Il bilanciamento vita e lavoro non gli è difficile. Remo Ruffini è un amante dello sport che pratica nel tempo libero. Ama il mare e la vela d'estate e la montagna d'inverno, il suo luogo naturale. Metto molto impegno nel mio lavoro, mi piace molto, dunque cerco di lavorare il giusto delle ore, nel senso che non cerco di andare a sciare, di provare i miei prodotti, cerco di trovare anche dei momenti di svago, però è comunque una qualità di vita, secondo me, indipendente dalle 8 ore, dalle 9 ore, dalle 15 ore di lavoro un giorno. Il problema è, secondo me, creare una propria qualità di vita, quello è il proprio ideale, e nel rispetto delle tue possibilità perseguire. Poi ci sono dei periodi chiaramente che ti impegnano di più, che devi essere più vicino al mercato, quando presentiamo le collezioni, giriamo il mondo per farle, e lì magari le ore sono diverse da quello che vorrebbero, però fa parte anche un po' di un dovere professionale. Futuro della montagna e futuro di Moncler. Remo Ruffini prova a fare una previsione. La mia strategia è quella del mio piumino globale, dunque il mio sogno è che uno compri una mia giacca, la possa mettere al 25 di settembre a Los Angeles o a Tokyo, nel rispetto del tempo e della temperatura, e lo possa mettere al 12 dicembre a Bardonecchia o a St. Moritz. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima!